Clock, with or without you run or stop. Clock, with or without you run or stop. Nel silenzio siamo parole di fango e parole di seta. Nel silenzio siamo parole di fango, parole di seta. The clock with or without you. Il tempo che corre, corre. Quando siamo distanti, corre, corre. Mentre insieme si ferma, diventiamo clessidra eterna. Diventiamo tempo di Dio. Torniamo ad essere possibile contro il tempo labile. Corre, corre la lancetta. In un attimo di silenzio tu scappa in fretta. Dai fantasmi che crea, oh mio Dio. Dalla paura che getta. Dalla paura che genera una lametta. Che fa l'acemo statico per una lametta. Tutto di fretta e si porta via qualcosa con noi, oh mio Dio. Invece poi il tempo dell'anima, quello che vuole in realtà la nostra lirica, trova con te la frase del placebo, tutto si ferma. Nell'attimo in cui siamo divinità storpia, ma ancora qualcosa manca e il tempo torna a correre in fretta. E poi con te tutto il sospeso degli anni, il tempo perduto che ci insegue torna a placarsi. L'orologio interno trova il saluto, il posto altro, il paradiso dove necessito solo te. Tutto questo prima che il tempo torni a far parola, torni a chiamare con la voce di una persona sola, torna a chiamare il tempo che mi divide dalla tua compagnia, finisce la tua medicina e il tempo ti riporta via e torna a girare la lancetta di quell'eterno amore, di quell'eterno tempo, torna a risuonare l'orologio delle carni e non dell'anima. Il tempo che corre, corre, quando siamo distanti, corre, corre. Il tempo che corre, corre, quando siamo distanti, corre, corre. Mentre insieme si ferma, diventiamo clessidra eterna. Il tempo che corre, corre, quando siamo distanti, corre, corre. Mentre insieme si ferma, diventiamo clessidra eterna. Diventiamo tempo di Dio, torniamo a essere possibile contro il tempo labile. Il tempo che corre, corre, quando siamo distanti, corre, corre, mentre si ferma, insieme diventando clessidra eterna, diventiamo tempo di Dio. The clock with or without you, the clock with or without you, the clock of life with or without you.